9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 21 di ottobre. Un auguro a tutti coloro che si chiamano Orsola, visto che oggi è Santa Orsola, è un nome che mi sta molto simpatico, per così dire. Allora, oggi, come sempre, prima di arrivare al tema della giornata, che è un approfondimento fiscale, perché ieri abbiamo toccato en passant l'ipotesi che il decreto sviluppo che stiamo attendendo, speriamo per la fine della prossima settimana, possa comprendere un'ipotesi di provvedimento fiscale, di pianificazione fiscale e anche ovviamente di condono per il passato. E questo tema ha raccolto molto interesse da parte di chi ci ascoltava, molte telefonate, e allora abbiamo deciso oggi di fare un approfondimento chiedendo agli stessi parlamentari che secondo l'indiscrezione di stampa si apprestavano e si appresterebbero a proporlo, di venircelo a spiegare e di commentarlo. Prima di approfondire questo tema, quindi tra poco con loro approfondiremo e sentiremo da loro qual è di preciso la portata della eventuale norma, un flash come sempre sulla giornata. La giornata inizia sui mercati male, perché siamo già oltre quota 400 punti di spread, ed inizia male sviluppi rispetto ai quali io continuo a pensare che la stampa italiana sia colpevolmente distratta. Io capisco ovviamente l'epilogo della vicenda di Gheddafi, attira le attenzioni in molte pagine ed è inevitabile. Seconda cosa di giornata, la nomina di Ignazio Visco, che fa uscire finalmente l'Italia da mesi di dubbi, divisioni che andavano assolutamente evitati. La politica, a mio giudizio, non ha fatto assolutamente fare una buona figura all'Italia, come se ce ne fosse bisogno da qualche tempo a questa parte. Ignazio Visco è un'ottima soluzione al vice direttore generale della Banca d'Italia, è un'ottima soluzione perché è un tecnico della moneta, perché è un interno di Banca Italia, quindi conferma l'idea che l'indipendenza e l'autonomia di Banca Italia è preservata, il che non significa che bisogna solo nominare interni in Banca Italia. Mario Draghi non era un interno, ma anche in quel caso bisogna dare l'idea che si sia lontanissimi da qualunque ingerenza impropria, cioè ipotesi di appartenenze o influenze politiche improprie. Ignazio Visco è soprattutto ottima soluzione anche perché, oltre che tecnico della moneta, è molto noto da sempre negli ambiti internazionali, quelli che più contano oggi, per gli incarichi che ha ricoperto, perché è stato 5 anni all'OCSE, perché nel sistema europeo delle banche centrali ha avuto sempre deleghe e rappresentanze internazionali, quindi da moltissimi anni frequenta ogni vertice internazionale, dal Fondo Monetario all'OCSE, ai comitati internazionali BCE e altre grandi banche mondiali. Da questo punto di vista è veramente una soluzione ottima. Non si capisce perché, se non per le debolezze della politica, si sia dovuto attendere tanti mesi e soprattutto gettare fango su personaggi di un rilievo, competenza e autorevolezza tali come Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, come Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia, come Lorenzo Binismaghi, l'attuale membro del board della BCE, che sono tutti da considerare risorse per l'Italia e che quindi andavano assolutamente preservati da questa doccia di fango. Bah, comunque, detto questo, seconda novità rispetto alla quale secondo me i giornali sono un po' colpevolmente distratti per queste vicende. Gli aggiornamenti giorno per giorno di quello che succede o non succede in Europa. La mia opinione è che al di fuori del Sole 24 Ore e di pochissimi altri, in pochi vi spieghino a che cosa siamo appesi come un filo. Per esempio, perché i mercati ieri e oggi ieri sono andati malissimo e oggi iniziano malissimo? Perché la notizia è stata tutta nel recinto franco tedesco, anzi bisognerebbe molto approfondire le informazioni sulla Germania, oramai il paese leader. Siccome dobbiamo capire che per le nuove procedure del recepimento del trattato europeo e sono le procedure delle istituzioni tedesche quelle che dominano il processo decisionale europeo, su questo oggi c'è un articolo, secondo me il più approfondito di tutti è quello, vi segnalo questi due articoli del Frankfurter Allgemeine di oggi. Il primo è quello di Günther Banas, che spiega per quale ragione ieri la Merkel ha dovuto dire a Sarkozy: cari ragazzi, noi dobbiamo dire ai mercati che domenica non decideremo niente. Perché il problema è che per il cancelliere tedesco, con le procedure di recepimento del trattato, non ha mandato per poter fare accordi di questo tipo, perché prima deve riferire al Bundestag, che lo deve autorizzare per eventualmente deliberare un aumento del leverage, cioè della leva finanziaria del fondo salva stati, dell'FSF, da fare intervenire anche per il salvataggio bancario. Ed è questa la ragione per cui domenica non si raggiungerà alcun tipo di conclusione, ed è questa la ragione per cui ci sarà un successivo incontro mercoledì, e tra domenica e mercoledì il cancelliere tedesco dovrà riferire al Bundestag e dovrà autorizzarlo. È meglio che ci mettiamo bene in testa che dipendiamo tutti dalle procedure del recepimento dei trattati tedeschi. E l'articolo di Günter Banner sul Frankfurter Allgemeine, per chi vuole può leggerlo, spiega come questa dipendenza dalle procedure tedesche è diventata oramai il vero cardine della diplomazia europea e del procedimento decisionale economico e finanziario dell'euroarea. Secondo articolo che voglio segnalarvi, sempre dal Frankfurter Allgemeine, perché è in prima pagina, mi ha molto colpito, c'è un commento a tutta prima pagina che per la prima volta ammette esplicitamente che l'euro può saltare. E così esplicito io sulla FAS non l'avevo mai letto. Ce n'è uno del tutto analogo sulla prima pagina del Financial Times Deutschland. Vuol dire che i tedeschi si stanno veramente rendendo conto che siamo prossimi al limite, che scintilla dalla fiaccola nella Santa Barbara può andare sulle polveri e può saltare tutto per aria. Mi pare che su questo l'opinione pubblica italiana resta un po' distratta, e che i media sono un pochino distratti, e forse è bene invece capire che ci siamo. Su questo io capisco che la politica italiana può pensare che i tedeschi alla fine freneranno perché non possono permetterselo. Detto questo, se il leverage, cioè la leva finanziaria dell'FSF, resta nell'ambito dei 1.000 miliardi di euro e non dei 2 o 3 mila di cui si parlava, la mia opinione è che resta un range di ballo per l'Italia ancora molto forte, quindi noi non saremo affatto liberi da ipotesi di commissariamento rinforzato rispetto a quello di questo agosto, ma naturalmente su questo posso sbagliare, vedremo. Allora approfondiamo con il capitolo fiscale della giornata odierna. Come promesso, abbiamo con noi appunto uno dei parlamentari di cui abbiamo appreso averci messo la testa sopra questa norma, Maurizio Leo, deputato del PDL. Buongiorno lei, onorevole Leo. Buongiorno dottor Giannino e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, ci spiega bene di che cosa si potrebbe trattare? Un meccanismo di pianificazione pluriennale destinato anche alle persone fisiche, chiuso solo alle imprese e alle persone giuridiche, come è avvenuto in passato in casi analoghi, che fa tesoro di quali esperienze del passato e in vista di quali obiettivi? Di reperimento di gettito a copertura delle spese del decreto stesso, ad abbattimento del debito se fosse più ingente? Cerchiamo di capirci spiegandolo con un gergo non troppo tecnico. Ecco, dottor Giannino, innanzitutto bisogna sgombrare il campo dalle strumentalizzazioni politiche. Qua si usano promiscuamente questi termini, condono, concordato e via dicendo. Dobbiamo dire subito che il concordato, anzi definiamolo meglio, accertamento con adesione di massa, è qualcosa di diverso dal condono. Il condono non si può fare, il condono è bocciato dall'Unione Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto che condoni, soprattutto per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, che è un'imposta di natura comunitaria, non è consentito. Quindi partiamo da questa premessa, chiamiamolo accertamento con adesione di massa. Che cosa succede oggi? Oggi l'amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento con adesione, ma è un accertamento individuale. L'amministrazione finanziaria può chiamare il contribuente Maurizio Leo e dirgli: fammi vedere la tua situazione reddituale, se sulla base dei dati in mio possesso la tua situazione reddituale non è conforme a quelli che sono gli elementi indici di capacità contributiva, bene, io presumo che il tuo reddito sia di X. Detto questo, nel momento in cui si fa un accertamento con adesione di massa si vuole sfruttare questa logica, vale a dire l'amministrazione finanziaria oggi conosce tantissimi elementi dei contribuenti alla luce di strumenti induttivi quali il redditometro, lo spesometro, gli studi di settore, le indagini finanziarie, quindi ha un bagaglio di informazioni che possono essere utili per dire che il reddito di Maurizio Leo dichiarato per 100 non è 100 ma è 120. A questo punto l'amministrazione finanziaria può mandare a tutti i contribuenti, avvalendosi degli intermediari finanziari, una proposta in cui si dice: guarda, il reddito che io ritengo a te attribuibile non è 100 ma è 120. Quindi sulla base di questo si dice al contribuente: aderisci o non aderisci? Se il contribuente aderisce si recuperano queste somme, si evita una fase che oggi c'è nell'accertamento individuale, quella del contraddittorio. Sappiamo che l'amministrazione amministrazione finanziaria oggi chiama il contribuente, c'è una sorta di trattativa, pensate al mondo degli studi di settore, dove addirittura poi nella prassi, nella operatività quotidiana si arriva a un abbattimento del 20 o 30% dei danni degli studi di settore. Tutto questo lo si fa con una logica di massa. Un'esperienza del genere, come lei ricordava, è stata fatta nel 1994, allora c'era il governo Dini, ha dato dei risultati ottimi per l'Italia, siamo riusciti a reperire circa 20.000 miliardi di euro. Io penso che la stessa situazione si può produrre con questo strumento. Ricordiamo, cioè, perché ho detto dobbiamo tenerla fuori questa vicenda dalle strumentalizzazioni politiche, che l'accertamento con adesione oggi è un istituto che fu introdotto dai governi di centrosinistra nel 1997. Se noi lo elaboriamo alla luce delle conoscenze oggi disponibili per l'amministrazione finanziaria, riusciamo a ottenere dei risultati sicuramente significativi e avremo un ponte rispetto a quello che sarà poi un accertamento preventivo, un concordato preventivo che è contenuto nella legge delega e che porta ordine nel sistema tributario. A suo giudizio, quale sarebbe il range approssimativo al quale si potrebbe mirare? Analogo a quello del provvedimento che ha richiamato in passato del governo Dini? Ma io penso sì, a tutti i soggetti, siano essi imprenditori, lavoratori autonomi, ma anche persone fisiche. Pensiamo alla persona fisica che non è titolare di redditi d'impresa. E questo soggetto può avere a disposizione dei beni, sostenere delle spese. L'amministrazione finanziaria oggi questi elementi li conosce. Voi sapete che di qui a qualche giorno verrà presentato il cosiddetto redditometro di nuova generazione con circa 100 voci che l'amministrazione finanziaria ha selezionato accuratamente. Questi dati, questi elementi possono rappresentare la base di conoscenza dell'amministrazione finanziaria per inviare questa proposta. Quindi io non limiterei l'ambito soggettivo di applicazione di questa norma. Ritengo che si possa applicare tanto agli imprenditori quanto alle persone fisiche e anche alle società, perché non dimentichiamoci che le società presentano nella dichiarazione dei redditi dei dati di bilancio attraverso le quali si può vedere gli scostamenti, le asimmetrie rispetto a parametri di riferimento, e anche nei confronti delle società si può formulare una proposta. Oh, da questo punto di vista la sua opinione è che, per così dire, l'aggravio degli impegni che l'amministrazione tributaria sarebbe chiamata a porre in essere alla luce del fatto che per avanzare le proposte bisogna elaborare moltissimi dati ed è tutto compatibile con le possibilità in termini di risorse umane e finanziarie dell'amministrazione tributaria, o l'amministrazione tributaria di fronte a una proposta che passasse in Parlamento di questo tipo direbbe ci state chiedendo un po' troppo rispetto alla quantità di cose nuove che stiamo mettendo a punto? Ecco, lo snodo di questa vicenda sta proprio qui. Oggi l'amministrazione finanziaria, con il lavoro della sola persona fisica appartenente all'amministrazione finanziaria, non è in grado di controllare l'universo mondo dei contribuenti. Queste operazioni si debbono fare con le banche dati dell'anagrafe tributaria, l'incrocio con altre banche dati, i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Questi elementi nel sistema, diciamo, informatico dell'amministrazione finanziaria sono presenti, sono conosciuti, tant'è vero che molte proposte oggi partono proprio sulla base della conoscibilità di questi elementi. Pensiamo all'universo mondo degli studi di settore, là dentro le informazioni l'amministrazione finanziaria per tutto ciò che ha acquisito nel corso del tempo ne è in possesso. Quindi io penso che con un lavoro ovviamente che deve essere fatto con un impegno dell'amministrazione finanziaria, ma una cosa analoga avvenne nel 1994, sia in grado l'amministrazione di far arrivare a ciascun contribuente delle proposte personalizzate per aderire e per chiudere il rapporto fiscale. Allora, io la fermo per il momento qua, sperando che sia stato sufficientemente alle orecchie di chi ascolta chiaro il termine della proposta, le sue modalità operative, come funzionerebbe il precedente, l'estensione rispetto al precedente. È questo punto che secondo me è un punto molto delicato. Le chiedo di aspettare lì, perché adesso chiediamo una controopinione all'onorevole Francesco Boccia, poi la richiamo in campo, onorevole Lo, perché voglio parlare anche di abuso di diritto e della possibilità forse di raddrizzare questo schifo. Questo è un punto che mi sta particolarmente a cuore e considero particolarmente intollerabile come funziona l'ordinamento su questo punto da un po' di tempo a questa parte, grazie alla giurisprudenza che si è accumulata. Ma intanto sentiamo sulla proposta che ha illustrato Maurizio Leo, come la pensa l'opposizione e in particolare come la pensa il PD. Abbiamo con noi Francesco Boccia, che saluto e ringrazio. Come la pensa, onorevole Boccia? Sì, buongiorno Giannino. Io mi sono collegato nell'ultimissima parte, quindi ho sentito solo l'ultima parte, ma conosco comunque la proposta. Ma io quello che mi sforzo di dire ai colleghi della maggioranza da un po' di tempo è che quando decidiamo di ispirare il modello di rapporto con il fisco ad altri paesi, in particolar modo a quello anglosassone, dobbiamo farlo tutto tondo, perché se ne prendiamo solo una parte, come sempre non ci ritroviamo. Va benissimo il tentativo di costruire un rapporto nuovo, anche se devo dire è un tentativo fatto più volte in questi anni, quasi sempre alla vigilia di condoni. Poi questo rapporto in realtà non è mai cambiato in maniera radicale, per quanto rispetto a 15 anni fa, oggi il rapporto tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate è un rapporto, se non altro, più continuo, ci si parla di più, i risultati probabilmente non sono migliori, ma ci si parla di più. Quando ci si ispira al modello anglosassone, io sono stato contribuente inglese per 4 anni, e lì il modello è quello del medico generico che conosce quasi tutti i suoi pazienti. Posso chiederle, nell'interromperla, non perché poi non riprenda subito il filo, se si sentiva meglio da contribuente britannico o da contribuente italiano? Non c'è dubbio, mi sentivo meglio da contribuente britannico, ma per un motivo molto semplice. Intanto l'omino, diciamo quello che noi chiameremo l'ufficiale delle tasse, come si chiamava un tempo, aveva lo stesso rapporto che il medico generico con ognuno di noi, nel senso che ogni 3.000-4.000 contribuenti c'era l'ufficio di riferimento con la persona che li conosceva quasi tutti. Quindi se uno all'improvviso la mattina si svegliava e andava in giro in Porsche, l'omino ti chiamava e ti diceva: ma quale biglietto della lotteria hai vinto? Cosa è successo? Siamo contenti per te, probabilmente è opportuno che ci spieghi cosa è successo. E questo per dire che la capillarità del rapporto, quindi anche il controllo, noi o lo facciamo davvero oppure poi non possiamo raccontare che all'improvviso cambia il rapporto con i contribuenti. E 20 giorni dopo la presentazione della mia dichiarazione dei redditi, a me arrivava l'assegno per differenza. Che bello, Su rispetto a quello che avevo versato in più, mi arrivavano le 300, 400, 500 sterline dell'assegno del fisco inglese che mi restituiva i maggiori versamenti. E di contro, quando un contribuente lì non paga e arrivano gli ufficiali a prenderti tutto, le sanzioni non vengono condizionate da meccanismi e da ricorsi che durano mesi se non anni. Le sanzioni penali per chi evade portano prima al carcere e poi a discutere del perché si è evaso. E voglio dire, o discutiamo di tutto e allora davvero facciamo una riforma, in quel caso potrebbe essere giustificabile chiudere con il passato, oppure ogni tentativo verrebbe confuso come l'ennesima tentazione di dire: chiudiamo qui le nostre pendenze e poi vediamo che succede. Se capisco bene, onorevole Boccia, lei non dice: non sono contrario a un nuovo metodo, però non è il momento, perché qui si rischia di fare il fine legislatura, il condono di fine legislatura, e di fronte a questo rischio io dico proposte di pianificazione, di cambio radicale dell'impostazione sistemica dell'interrelazione tra contribuente e amministrazione tributaria hanno bisogno di un orizzonte che sia immune da questo rischio. Capisco bene? Capisce benissimo. E aggiungo che sul piano economico faremo un danno al paese, perché qui parliamo sempre delle risorse da recuperare, ma facciamo finta di non sapere che i bilanci dei comuni, come quello dello Stato, hanno purtroppo una corsia parallela, che è quella dei residui attivi e di quelli passivi. Tre legislativi, ci sono i crediti che ha lo Stato, e i crediti che ha lo Stato in larga parte sono con i contribuenti, e nel momento in cui facciamo un condono, quei residui attivi diminuiscono, poi il bilancio dello Stato è vero che facciamo cassa, ma dobbiamo andare in qualche modo a pareggiare, a equilibrare l'altra colonna, per così dire. Perfetto, ora andiamo in pubblicità, torniamo chiedendo a onorevole cosa pensa di questa obiezione, che mi sembra però avanzata in termini costruttivi e sereni, cioè stiamo evitando i toni di accuse contrapposte col ditino alzato, però è un'obiezione politica e tecnica. Eccoci tornati qui in studio, e si è collegato con noi Claudio Siciliotti, che è il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che saluto e ringrazio, e chiedo dal suo punto di vista la proposta che ci ha illustrato l'onorevole Leo, quindi di una pianificazione pluriennale a adesione di massa con l'amministrazione tributaria, che disponendo di molti dati in più e molti strumenti sintetici e analitici in più di quanto non sia in passato, avanza proposte a milioni di contribuenti, estendendone il range, a differenza di quanto avvenne ai tempi del governo Dini, anche alle persone fisiche, oltre che a tutte le persone giuridiche, di un'impostazione di questo tipo che sembra trovare nuovi adepti molto numerosi nei gruppi parlamentari della maggioranza in vista del decreto sviluppo. Che pensa Siciliotti? Intanto buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Penso che allora questa categoria si è espressa da tempo contro i condoni. È giusto dire che il concordato è cosa diversa dal condono. Il concordato è un accordo tra fisco e contribuente in cambio di imposte più alte di quelle che sono state dichiarate. In cambio di questo vengono meno i controlli. È più orientata al futuro, mentre il condono è un colpo di spugna sul passato, indipendentemente dal fatto che siano state presentate addirittura le dichiarazioni. Quindi da questo punto di vista, se fosse rivolto al passato, e così sembra non essere, il giudizio sarebbe senz'altro negativo. Se è rivolto al futuro e lo Stato incassa senza fare accertamenti, e il contribuente sa in anticipo quanto dovrà pagare, funziona solo se si conosce perfettamente la situazione dei contribuenti. E voglio ricordare che ci sono in Italia 5 milioni di partite IVA e con situazioni molto molto diverse. Voglio ricordare anche che oggi l'agenzia recupera circa 10 miliardi di evasione l'anno, ed è una cifra significativa, molto più alta di quello che si faceva in passato, e bisogna domandarsi se in questa situazione di rinnovata efficienza valga la pena precludersi l'accertamento e valga la pena perdere quell'effetto deterrente che questa attività ha. E l'ultima considerazione, stiamo comunque attenti che tutto questo non riguarda l'IVA, che è un'imposta comunitaria che finanzia sia pure in parte residuale il bilancio dell'Unione Europea, e la Corte di Giustizia Europea ci ha ricordato che gli Stati nazionali non ne possono disporre, possono alzare e aumentare entro certi range l'aliquota, ma non certamente condonare e neppure concordare a forfait. E su questo però l'onorevole Lea è stata una delle primissime osservazioni che ci ha fatto prima di entrare nel merito, ha ricordato esattamente questo, quindi la proposta non riguarda l'IVA. Chiedo all'onorevole Leo di rispondere alle osservazioni che sono venute dall'onorevole Boccia e ora dal presidente Siciliotti, e gli chiedo altresì se ci può fare una formale promessa, se possiamo sperare che siamo alla volta buona perché riscriviate gli articoli in materia di abuso di diritto, ripristinando a noi contribuenti una situazione minimamente tollerabile rispetto alla giurisprudenza accumulata, che dice che se Oscar Giannino ha due strade o tre strade, ma se ne ha due nell'ordinamento che gli consentono di scegliere un modo del tutto previsto dall'ordinamento per diminuire il prelievo dello Stato, ripeto, in ordine a ciò che dice l'ordinamento, io devo scegliere la via più onerosa, perché altrimenti la giurisprudenza accumulata dice che il mio è un abuso di diritto che può andare nel penale e immediatamente in sanzioni amministrative e penali. Io considero questa la classica proposizione di un sistema di contenzioso tributario, di contestazione tributaria, nel quale lo Stato si avoca dei diritti da ladro. Spero che questa volta, siccome si legge, ho letto anche stamattina di nuovo sul giornale che c'è un impegno a farlo, che questa volta si possa approfittare di uno dei provvedimenti per ristabilire un minimo di tollerabile situazione, non dico di imparità, di parità, perché non c'è tra contribuente e Stato, ma di imparità meno ingiusta e meno gravemente lesiva del più elementare stato di accettabile imparità tra contribuente Giannino e lo Stato. Prego Leo. Allora, innanzitutto devo dire che ho apprezzato molto le affermazioni sia del collega Boccia sia del dottor Siciliotti. Penso che questo è il modo giusto di approcciarsi quando si parla di temi fiscali. Per rispondere alla sua domanda, noi dobbiamo dividere l'evasione in due grandi categorie. L'evasione di massa, che non può essere combattuta col solo impegno dell'uomo. Oggi sappiamo che l'amministrazione finanziaria ha una capacità operativa limitata per recuperare le imposte su tutti quanti gli evasori. Quindi dobbiamo studiare strumenti nuovi. E quali sono gli strumenti nuovi? Le banche dati, gli incroci, il redditometro fatto in un certo modo, quindi in qualche modo condiviso anche con gli addetti ai lavori, in particolar modo con i dottori commercialisti esperti contabili, gli studi di settore, le indagini finanziarie, quindi una serie di elementi che possono riuscire a fotografare qual è la situazione reddituale oggettiva del contribuente. Cosa diversa invece è la elusione o l'abuso del diritto. Io ho presentato un disegno di legge ormai da qualche tempo, purtroppo non si è riuscito a discutere alla luce di quelli che sono stati gli sviluppi dei provvedimenti di quest'estate, ma andava proprio nella direzione da lei indicata, di distinguere quello che è l'elusione, vale a dire il carpire la buona fede del legislatore, approfittarsi delle norme tributarie per avere dei vantaggi fiscali, da quello che è il legittimo risparmio d'imposta. Se io ho due strade davanti a me e tutte e due previste dal legislatore, non devo andare a scegliere quella per me fiscalmente peggiore, posso scegliere quella per me più vantaggiosa, ma non ho ingannato nessuno, non ho ingannato il legislatore, non ho ingannato il sistema tributario. Ecco, questa cosa va sicuramente fatta. Se si opera in questa direzione, io penso che intavoliamo un discorso sereno, pacato, su un tema fondamentale della nostra vita sociale, sulla quale, ritorno a dire, non bisogna dividersi, ma bisogna cercare di trovare delle soluzioni che poi vadano nella direzione del bene di tutti i cittadini. Mi lasci quest'ultimo commento. La vicenda che ha sollevato grandi echi sulla stampa per gli avvisi di garanzia che hanno interessato alcune decine di manager dell'Unicredit, ex manager o manager, tra cui innanzitutto l'ex amministratore delegato Alessandro Profumo, tutti lo sanno, c'è un'inchiesta penale in corso da parte della Procura di Milano su esattamente su ipotesi di arbitraggiamento fiscale, cioè su come quella grande banca, insieme a molte altre grandi banche, io credo che assisteremo a una raffica di provvedimenti di questo tipo. Ci sono stati anche sequestri conservativi di quasi 250 milioni a Unicredit, che è una delle banche più esposte per la provvista breve di capitale. Assumere misure di questi tempi, di questa portata, è una bella responsabilità per i pubblici ministeri. Ma in quel caso, perché ne sto parlando? È un classico caso in cui i titoli dei giornali vanno tutti su: ah, Profumo voleva fare politica, ma è indagato perché evasione fiscale. In quel caso la questione era come grandi banche, non solo Unicredit, moltissime grandi banche italiane e assicurazioni italiane, potevano contabilizzare fiscalmente flussi annuali che venivano messi su determinati prodotti, incrociati e swappati. Allora, siccome naturalmente con operazioni che hanno durata inferiore all'anno, la traccia che resta poi nel bilancio e anche quindi significa i ratios patrimoniali per capitale di vigilanza delle banche sono naturalmente, secondo la legge vigente, inferiori, le banche sceglievano di condurre queste operazioni di swap incrociato in maniera tale che non fossero soggetti a normale operazioni, a normale esazione fiscale come interessi, ma con un prelievo fiscale molto più basso relativo a capitali che vengono utilizzati invece per swap finanziari incrociati. Allora, questa roba qua, che naturalmente a molti di voi potrà sembrare invece la brutale conferma di come le banche operino al di fuori di ogni schema di diritto accettabile e pagano tax rate troppo bassi rispetto alla piccola impresa, io sono il primo a dirlo, visto che pago 30-40 punti più di alcune grandi banche italiane con le mie due società, però era diciamo così possibile secondo il nostro ordinamento, tanto che fior di studi professionali hanno dato i pareri pro veritati alle banche per operare in quel modo. Nella fattispecie, a dare il parere a Unicredit è lo studio Vitale Romagnosi Tremonti, per essere chiari, da cui Tremonti è sospeso perché è ministro, ma è quello. Allora, in questo caso l'abuso di diritto è diventato immediatamente inchiesta penale, sequestro di conti e immediatamente responsabilità personale dei manager. Stiamo attenti, perché io che pure voglio che le banche paghino in proporzione al loro perimetro e a quello che movimentano, non 30 punti meno delle mie microscopiche società. Tuttavia non arrivo a battere le mani a un abuso di diritto che diventa immediatamente sequestro cautelare e che significa la gogna per i manager, perché bisogna stare attenti. Il parere pro veritate, ripeto, quello che i giornali non vi hanno messo sui titoli, vi hanno messo profumo, è dello studio del ministro dell'economia, non proprio quindi imputabile di essere un nemico dell'ordinamento. Tanto è vero che la procura di Milano ha agito mettendo in piedi un pool di esperti in cui non c'è l'agenzia delle entrate, evidentemente non fidandosi che l'agenzia delle entrate non facesse un favore al ministro, per così dire. Ma dove vogliamo arrivare? Bisogna semplicemente rimettere l'ordinamento in sesto, non utilizzare criteri di sospetto incrociato, per così dire. Eccoci tornati in studio, un po' di ascoltatori, sentire come la pensano solo loro sulla proposta illustrataci dall'onorevole Leo, che credo sarà una delle proposte della maggioranza, da quello che capisco. Credo che sia una delle cose più rilevanti che ci arrivano rispetto a quello che si legge di anticipazione sul decreto sviluppo, che per il momento sono molto insoddisfacenti e che verranno esaminate anche nel convegno dei giovani di Confindustria a Capri oggi pomeriggio e domani, che verrà chiuso poi da Emma Marcegaglia e introdotto da Jacopo Morelli, presidente dei giovani. Sentiamo come la pensate di quello che avete capito. Cominciamo con Nico, che chiama da Vercelli. Prego Nico. Pronto? Dica. Allora, io... per la miseria, sono appena ripartito. Ecco, per fare e motivo. Subito l'abbiamo fatta rifermare, prego. Sì, senta una cosa, io volevo, l'ho chiamata per quello, per dare un'idea su quello che ho sentito all'inizio, lei parlava dei giornali, eccetera, eccetera. Sì. È questo, la Germania, per poter risolvere l'Europa, per poter risolvere il problema, dovrebbe far uscire la Germania dall'euro, perché è quella che ha con le sue la sua rigidità teutonica conosciuta da sempre, pensa di poter risolvere tutto. Chiedo scusa, ma mi fermo subito perché qui c'è la sì, ci sono un po' di allarmi vari, Nicolò, ma ho capito la cosa. Guardi, la mia opinione è questa: un euro senza l'ex marco è un euro che non funziona, perché insieme alla Germania sono gli olandesi, i finlandesi, i polacchi, come sappiamo, abbiamo sospeso, ma oramai è una specie di Germania delocalizzata, l'Austria, quindi... non sono molto d'accordo, no. E poi non è questione di rigidità, loro hanno rigore in finanza pubblica, produttività nell'economia reale, efficienza nella macchina pubblica. Ieri, per esempio, faccio notare, altra cosa sui giornali non si legge, ieri Schäuble, il ministro delle finanze, e Rosler, che è capo dell'FDP, l'altro ministro economico, stavano mettendo d'accordo su un pacchetto di nuovi sgravi fiscali per 6 miliardi per Mittelstand, la piccola e media impresa tedesca, perché funziona così la Germania. E purtroppo ieri è saltato perché non avevano poi informato il capo della CSU, nonché del grande land meridionale della Baviera, Horst Seehofer, e che ha detto no, se non sono parte anch'io del patto, che poi naturalmente se ne fregia di fronte ai contribuenti, la cosa si rinvia e non si fa. Ecco, ma nel frattempo non è solo rigore, come si vede, anche sgravi fiscali alla piccola impresa, esattamente quelle che noi non vediamo, caro Nico. Giorgio da Torino, prego Giorgio. Buongiorno Giannino, un commento, come dire, velocissimo solo sulle affermazioni peraltro condivisibili dell'onorevole Leo. Nei suoi vari passaggi riferiva di un, come dire, di una certa sacralità degli studi di settore. Gli studi di settore sono, come tutti conosciamo, come dire, degli elementi statistici su cui si concentra una rappresentatività di un campione. In uno Stato che ha bisogno di cassa, come tutti sappiamo, è chiaro che il punto di vista della campionatura è pro domo fisco, quindi è abbastanza inevitabile che si usi questo tipo di strumento per averne un agio. Questo era solo per dire, come dire, che quando si affermano certe cose sul modello di rappresentatività di alcuni elementi con cui si fa dell'imposizione fiscale, bisogna essere molto attenti a spiegare che cosa sta sotto questi strumenti. Perfetto. La seconda osservazione? La seconda cosa, diciamo, come manager, con un parallelismo tra Stato e azienda, in una società che ha una grande difficoltà in termini di cassa, rivedere sia gli investimenti per il suo futuro, se non strettamente necessari, e sia la possibilità di armonizzare le due curve tra spesa, tra ricavi e costi, diventa molto difficile. Quello che diceva Leo è molto interessante: se noi avessimo un avanzo primario per decomprimere gli interessi passivi e per avere la possibilità di finanziare un'armonia diversa tra contribuente e Stato. Io penso che tutto il resto Lei dice è un po' imprudente finché non abbiamo l'avanzo primario, però il problema è che gli avanzi primari che noi avevamo praticamente azzerato, adesso stiamo ricostituendo da quest'anno e che portiamo, pensiamo di portare fino a quasi al 6% del PIL, e fino a che non aspettiamo quello è un po' pesante. Il problema è che secondo me queste operazioni vanno condotte in coerenza di tagli più incisivi sul totale della spesa, visto che noi 100 miliardi di entrate in più che facciamo nel triennio li destiniamo in realtà sì 70 e oltre all'azzeramento del deficit, poi il resto li destiniamo invece, ohimè, a copertura di spesa aggiuntiva. Quindi io capisco la sua prudenza, però la capisco perché è la prudenza di chi, come nelle imprese, è abituato a non far fare i numeri più di quello che possono fare, lo stesso chiede dallo Stato. Lorenzo da Roma, prego Lorenzo. Sì, buongiorno a tutti. E la mia domanda era semplicissima, premetto che io non sono un esperto tributarista, sì, quindi può darsi che dica una sciocchezza, ma c'era la minimum tax, che era un meccanismo molto semplice, che diceva che titolari, imprenditori, titolari di imprese, negozi, esercizi commerciali, dovevano dichiarare più dei loro dipendenti. Era degli anni 90, scoppiò una mezza rivoluzione, fu immediatamente tolta e poi portò agli studi di settore. Era un meccanismo semplice, comprensibile all'opinione pubblica, mentre mi sembra che questo concordato di massa personalizzato sia una cosa molto macchinosa, diciamo. Lorenzo, però nel frattempo noi ci siamo battuti perché l'amministrazione finanziaria avesse strumenti di accertamento analitico e sintetico e sapesse molto di più di prima. La minimum tax era un principio di ordine generale. Però facciamo rispondere poi a Claudio Siciliotti alle vostre osservazioni, come la pensa il presidente dei commercialisti esperti contabili. Abbiamo ancora Massimiliano da Verona. Prego Massimiliano. Sì, buongiorno. Questi io sento concordati, condoni, sì, aumento delle entrate, sì, ma quando è che si chiudono le uscite? Questo è il discorso. Paghiamo le tasse tutti per pagarle meno. Se noi paghiamo tutti le tasse, non so se vengono fuori 100 miliardi di euro, i governanti ne fanno 150. Massimiliano, la pensi come me, ma siamo in minoranza. Bisognerà pensare a una coalizione, a un governo, a un ministro dell'economia che la pensi come noi. Bisogna avere coraggio. Bisogna avere coraggio. Io sono anche per l'autodenuncia plateale, aperta, però aperta sotto gli occhi di tutti, di identificare punti deboli dell'ordinamento per autodenunciarci e tentare di fare dibattimenti e spingere un giudice anche a fare giudizi costituzionali su questo con giudizi incidentali. Io ci sto, ma sono in minoranza. Sentiamo, mi terrei, onorevole Boccia, se ha ancora un secondo di pazienza per l'ultimo minuto, ma vorrei sapere da Claudio Siciliotti un po' di reazioni a chi chiede: ma non era meglio la minimum tax? Ma si può procedere a un meccanismo così ampio come quello illustrato dall'onorevole Leo con questi numeri di bilancio? Che pensa Siciliotti? Allora, intanto mi dichiaro anch'io minoranza, dicendo che se non abbasseremo le spese, la agognata riduzione delle imposte sarà un miraggio solo propagandistico, perché questo è il reale tema. Se no si scambia il prima con il dopo, cioè qui la cosa fondamentale è ridurre la spesa pubblica, da questo può derivare una riduzione della pressione fiscale. Secondo ragionamento, il tema dell'abuso di diritto che ho sentito citare si collega al tema della fiducia. Quello che manca oggi è la fiducia, e la fiducia vuol dire certezza, che è un dato oggettivo ancor più che giustizia, che rimane talvolta un dato soggettivo. E quindi da questo punto di vista io vorrei rilanciare, so che l'onorevole Leo ha fatto la proposta sull'abuso di diritto, sì, che noi condividiamo, aggiungo la proposta che già l'onorevole Leo si è dichiarato d'accordo di rendere elevare lo statuto del contribuente a norma di rango costituzionale. In questo modo si crea fiducia. E qui la fermo perché devo chiedere a onorevole Boccia, nell'ultimo minuto che ci resta, lo approveranno secondo me questa misura? Quale sarà la reazione dell'opposizione? Levare lo statuto del contribuente? Magari non questa. Approveranno quella di Leo, che di cui abbiamo parlato oggi. Spero non sia l'ennesima tentazione di trasformare alcuni ragionamenti di buonsenso in un'altra scorciatoia. È successo altre volte, io mi auguro che Leo e i colleghi della maggioranza si aprano completamente ai contributi che arriveranno dall'opposizione. Non ne abbiamo parlato, ma vi segnalo che da 3 mesi dall'opposizione chiediamo il concordato fiscale con la Svizzera e il governo fa finta di non sentire. Giusto, giusto, perché quanto hanno fatto paesi come la Gran Bretagna in questa giornata dovrebbe essere seguito. Io so che c'è una squadra tecnica che sta seguendo la faccenda, il ministro dell'economia si va prudente perché non vuole cedere alle pressioni della maggioranza che dicono li mettiamo a copertura di spesa o a copertura di nuove di misure come decreto. Lui vuole no, li mettiamo ad abbattimento del debito. Questo è quello che io so dal ministro dell'economia. Io mi auguro che niente sia un condono, perché la credibilità dell'Italia è già sotto i piedi, non ce lo possiamo permettere. Grazie onorevole Leo, grazie Francesco Boccia e grazie al presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e Esperti Contabili Siciliotti. Per noi appuntamento a lunedì, questo fine settimana non deciderà nulla e lo spread oggi sale, sale, sale, perché la nostra credibilità scende, scende, scende. A lunedì. 9 in punto.